Ben ritrovati da On The Road, sta per iniziare. Io sono Livia Napolitano e questa è Radio Libriamoci Web. Questa settimana ci dedichiamo ad una favola. Una favola tratta dal libro illustrato dei bambini colorati, scritto da Yuri Galli e illustrato da Silvia Celoni. Ovviamente si tratta di un'opera rilasciata sotto licenza Creative Commons. Sul Nottetempo blog pubblicheremo il link dove poterla scaricare, così da osservare anche le bellissime illustrazioni di Silvia Celoni. Come scritto nella prefazione, l'esito di questo racconto dipende dai suoi veri protagonisti. Chi lo legge, lo racconta e con questo lo fa proprio. Questo libro è stato pubblicato nella speranza che possa essere per tutti un tassello in più nella ricerca di chi siamo, per scoprire dove sono i nostri colori e quanto possa essere importanti non trascurarli. Questa favola racconta la storia di Pietro, un bimbo dai molti colori in mezzo a bambini di un solo colore. I grandi però non accettano questa eccessiva colorazione di Pietro e dapprima prendono a sbeffeggiare il bambino e poi cominciano a prendersela con i suoi genitori. È una favola quindi sulla diversità, sulla tolleranza e sul valore della propria unicità. Vi lascio quindi all'ascolto di I bambini colorati, scritto da Yuri Galli. C'è stato un tempo in cui i bambini erano colorati. Gialli, verdi, blu, rossi, arancio, bordeaux, rosa e altri ancora, tutti i colori insieme nello stesso corpo. Non sappiamo di preciso cosa accadesse al tempo dei bambini colorati. La storia racconta che i bimbi si fermassero sempre a contemplare i fiori nei prati verdi senza volerli raccogliere mai. I grandi però cominciarono a dire ai bimbi di raccogliere tutti i fiori che potevano, quelli viola, quelli blu, quelli piccoli e quelli grandi. Chi se ne importava della morte dei fiorellini? Questi fiori li avrebbero resi più belli e più ricchi. I bambini si stendevano nei prati, ma intorno a loro non c'era più il profumo né il solletico dei fiorellini sotto i piedi. I prati verdi non assomigliavano più a quelli di una volta, ormai spogli di fiori. Quando si resero conto che erano state le loro manine a strapparli via, piansero a tal punto che tutti i colori sul loro corpo si dileguarono. Si guardarono e capirono che ormai erano solo un unico pezzo di quell'arcobaleno che un tempo erano stati. Fu questo triste evento a portarci nel tempo dei bambini di un solo colore. Ogni tanto però accade magicamente che qualche bambino colorato nasca ancora sulla terra, come un ricordo lontano dei suoi piccoli antenati. Questa è la storia di Pietro, nato qualche tempo fa. Era ancora piccolino, alto più o meno come un comodino. Aveva i capelli rossi come papaveri e il viso giallo dei girasoli. Per non parlare poi delle braccia, ne aveva uno azzurro come gli occhi della mamma e l'altro viola, come le melanzane. «Che cosa strana!» si dicevano tutti. La mamma, il babbo, i nonni, il paese intero lo guardava con meraviglia e con stupore. Ormai erano secoli che non nascevano bambini così colorati. Quando i grandi vedevano Pietro, rimanevano a bocca spalancata come tanti pesciolini. Ma dopo un po' di tempo, quando la voce era passata di bocca in bocca, da orecchio a orecchio per tutto il paese, i grandi, forse gelosi di tutto quel colore, cominciarono a dire che Pietro era un mostro. Lo chiamavano scherzo della natura. Pietro prendeva quelle parole come un gioco e si immaginava di far sorridere la natura con i suoi colori. Allora provarono a lanciargli delle banane dicendo «Mangia, scimmia!» Ma Pietro trovò questo gioco molto divertente ed imitando l'andatura delle scimmie sbucciava le banane e le offriva agli altri bambini. I suoi genitori erano molto dispiaciuti per tutto questo, anche se lui pareva non soffrirne neanche un po'. Quando i grandi videro che Pietro invece di piangere si divertiva alle loro parole, decisero che la colpa dei suoi colori era dei genitori. Un giorno i rappresentanti del governo mandarono la super guardia cattura colori a prendere i due genitori che furono giustiziati sulla pubblica piazza. Pietro scoppiò in un pianto disperato per molti giorni. I rappresentanti inviarono un ufficiale del distretto per la serietà dei bambini che raccolse il piccolo Pietro per riportarlo alla scuola di rieducazione e conservazione della normalità assoluta. L'ufficiale si accorse che il bimbo non era poi così colorato come gli avevano detto. In realtà i suoi colori stavano perdendo la consueta lucentezza, il suo corpo stava diventando di un solo colore. Mentre viaggiava nella camionetta della polizia, Pietro era così triste che vedeva il paese tutto grigio. Poi notò una casetta di legno che aveva sui muri macchie di colore. Alla vista di quella casetta un sorriso appena accennato, caldo come i primi raggi di primavera, apparve dentro i suoi occhi. L'ufficiale ed il bimbo si guardarono profondamente. lo sguardo del bimbo, naturale e spontaneo, lo sguardo dell'ufficiale sperso, quasi imbarazzato, ma sempre fisso su Pietro. Un gesto quasi involontario spezzò il silenzio. L'ufficiale aprì la portiera, calò ancora un lungo silenzio. «Ciao Pietro, buona fortuna!» gli disse l'ufficiale. «Ciao Aldo!» gli rispose il bimbo. Pietro scese dalla camionetta che se ne andò senza di lui. Pensava a quello che era successo e sorrideva. Si mise a camminare e quel camminare lo faceva ridere di gioia, profonda gioia. Mentre rideva incontrò una bambina. Era seduta sull'erba, appoggiata dolcemente con la schiena contro un albero. I suoi capelli emanavano un turbine di colori che cambiavano in ogni istante, da rossi a verdi, da verdi a bianchi, e poi rosa, turchini, marroni. Quando vide Pietro si alzò. Lo prese per mano e si misero a correre, distesero le braccia insieme formando ali che il vento sollevava sempre più in alto. Era maggio, aprile o forse novembre. Vanessa, la bambina, abbracciò forte Pietro, lo guardò negli occhi e gli disse: «Che bello vederti! Sono così felice adesso che sei qui!» E mentre lo diceva, rifletteva nei propri occhi il colore di Pietro. Il bimbo si guardò le mani e sospirò. «Le mie mani sono di nuovo gialle!» E lo diceva mentre i piedi nudi della bimba si stavano colorando di viola. Chissà poi come sarebbe andata. Avrebbero ispirato gli altri bambini a ritrovare i propri colori?